1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, debosciati d'Italia, come state cari ascoltatori? Alle 7:17 minuti siete indaffarati per uscire di casa, portare i bimbi a scuola, andare a lavorare, state già lavorando da 6 ore, state spaccando la legna con l'accetta, state guidando i tassi, gli autobus, i camion. Eccoci qui alle 7:17 minuti, pronti a leggere i giornali, a parlare allora di questo dramma parlamentare, soprattutto al femminile di ieri con la bocciatura delle quote rosa. E che succederà ora alla legge elettorale? Alle 8:15 ne parleremo, saranno con noi l'onorevole Alessia Mosca del Partito Democratico, Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, saranno con noi anche Nicola Porro, il vice direttore del giornale conduttore di Virus su Rai 2, a parlare di quello che succede, anche magari a capire, visto che avevo Nicola Porro, che succede domani sulla questione del tagli, delle tasse, i tagli al cuneo fiscale, dove andranno questi miliardi. Qualcosa oggi è anche ben specificato sui giornali e chiaramente sono i giornali che andiamo a leggere. In questo martedì 11 marzo i titoli sono proprio con queste due notizie in primo piano, cioè la situazione della legge elettorale con le quote rosa bocciate, ma anche la situazione economica e l'apertura del Sole 24 Ore proprio su questo. Padoan, dai tagli di spesa la copertura sul cuneo. Così parla il ministro dell'economia ieri all'Ecofin, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio. Mentre per il Corriere della Sera, no alle quote per le donne, ma c'è anche in apertura una lettera che il presidente di Confindustria Squinzi ha scritto al Corriere, pubblicata: meglio un lavoro in più che pochi euro nelle buste paga, cioè l'appello di utilizzare i soldi per abbattere l'IRAP. Per Repubblica, bocciata la parità, rivolta nel PD. Il Fatto Quotidiano, il patto Renzi-Berlusconi affonda, quote rosa e PD. Per il Messaggero, niente parità, rivolta in aula. Mentre La Stampa si concentra sulla questione economica e il titolo è 10 miliardi per le famiglie. La Stampa si spinge oltre dicendo: Renzi ha deciso, i tagli saranno tutti concentrati sull'IRPEF. Per l'Unità, Italicum, rivolta delle donne. Il Manifesto, rosa shocking. E si parla ovviamente delle quote rosa. Mentre il Libero, ci sono le anticipazioni del libro di Mario Giordano che esce oggi, Il piano segreto per uscire dall'euro. Il Giornale, i maestrini dello spreco, eurofollie, sperperi, leggi assurde, privilegio, Bruxelles ci dà lezioni e butta via i nostri soldi. Anche qui l'apertura è sul libro di Mario Giordano. Per Avvenire invece, no alle quote rosa, cuneo giù con i tagli. Mentre Il Secolo XIX apre così: la legge del branco, bocciate le quote rosa. E come vedete, questa è forse la notizia che ha raccolto più titoli di prime pagina. Io prima voglio partire però da altre notizie. La prima è una notizia di cronaca che riguarda una vicenda che i giornali hanno trattato abbondantemente, la vicenda delle cosiddette baby squillo ai Parioli a Roma. E la notizia, col massimo del garantismo ovviamente, che viene data sia dal Messaggero e sia da Repubblica, con ampio risalto una pagina dedicata a questo tema, è una notizia che coinvolge di riflesso e di lato anche un onorevole della Repubblica Italiana, vale a dire Alessandra Mussolini, perché il titolo di Messaggero e Repubblica è questo: Baby squillo, c'è il marito dell'onorevole, così titola Il Messaggero a pagina 13. Oppure Repubblica, baby squillo, indagati 20 clienti, c'è anche il marito della Mussolini. È il manager Mauro Floriani che ai PM dice: io sono assolutamente innocente. Ma Maria Elena Vincenzi racconta su Repubblica: sono stati iscritti nel registro degli indagati clienti delle baby squillo dei Parioli, quelli che secondo i PM sapevano che le due ragazzine erano minorenni, una ventina in tutto, e tra loro c'è anche il marito di Alessandra Mussolini, Mauro Floriani. Per lui, come per gli altri, l'accusa è molto grave: prostituzione minorile. Ex ufficiale della Guardia di Finanza, da quasi 20 anni passata ai vertici delle Ferrovie dello Stato, il Capitano Mussolini, così era soprannominato, scrive Repubblica, è stato identificato dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, delegati alle indagini sul caso delle due minorenni che si prostituivano nella zona più chic della capitale. Come sono stati trovati i nomi? Beh, grazie allo screening a tappeto e minuzioso tra le centinaia di telefonate che arrivavano sui cellulari di Serena ed Emanuela, nomi di fantasia delle due ragazze, che come svelarono le indagini lo scorso ottobre, che hanno portato all'arresto di 5 persone, tra cui anche la madre di una delle due, ricevevano tantissime chiamate di aspiranti clienti. Chiamate che ha fatto anche lui, il marito della Mussolini, così scrive Repubblica. Floriani ha respinto ogni accusa coi carabinieri che hanno raccolto la sua autodenuncia e ha negato di aver avuto rapporti con le due adolescenti, ma il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pubblico ministero Cristiana Macchiusi hanno comunque deciso di scriverlo tra gli indagati per prostituzione minorile. Beh, davvero, sono 20, tra l'altro un messaggero fa sapere che potrebbero essere anche di più, nel senso che man mano che vanno avanti le verifiche, altri nomi illustri potrebbero finire nel fascicolo stralcio sui frequentatori delle due baby prostitute. Questo ovviamente è ciò che scrivono il Messaggero e Repubblica, la notizia di cronaca che torna in primo piano. A proposito di cronaca, ma legata alla politica, c'è la vicenda di Pontassieve. Pontassieve non è un comune a caso, è il comune dove risiede Matteo Renzi ed è il comune dove scrivono due giornali, Il Fatto e Repubblica, è successo un fatto politico che in questo caso diventa non indifferente, cioè il candidato alle primarie per il sindaco di Pontassieve, renziano, ha perso. Ma come si dice? Ha perso il renziano in casa propria? Ebbene sì, a Pontassieve, dove risiede il premier, il candidato che ha sostenuto per le comunali Matteo Renzi è stato sconfitto dalla minoranza del PD. Rivolta in casa Renzi, titola addirittura Il Fatto, perde le primarie per il sindaco amico con Davide Vecchi. A pagina 5, sono 60 anni ormai che va avanti questa storia. Il sindaco in carica, come nelle antiche signorie toscane, indica il suo successore. Ma la sconfitta alle primarie, Samuele Fabbrini non se l'aspettava. Ha perso per appena 15 voti, 15 schede che bruciano parecchie. Nonostante ora dica la moglie Agnese ha votato per me, la moglie del premier. Qui il premier arriva ogni domenica, va in chiesa, stringe mani, bacia, accarezza i bambini. Qui dovevamo vincere a mani basse, sospira Fabbrini e sfoga la rabbia. Quella lì domenica è andata pure a messa per la prima volta in vita sua per farsi vedere con Matteo. Quella lì è Monica Marini, cioè la vincitrice, architetto, da 10 anni assessore comunale, da sempre di sinistra si definisce, colei che fa parte del PD non renziano. Addirittura Pubblica intervista Samuele Fabbrini, vale a dire il candidato renziano, colui che è anche amico di Matteo Renzi, colui che dice fu il mio capo scout. Fabbrini dice di Renzi è stato il mio capo scout tanti anni fa e oggi per lui è il leader politico di riferimento, l'esempio da seguire. Eppure Samuele Fabbrini, 34 anni, ingegnere meccanico, non ce l'ha fatta a vincere le primarie per candidarsi a sindaco nel suo paese. Dice ora a Repubblica, intervistato da Simona Poli, si sapeva che fosse una sfida complessa, tante frazioni, una classe dirigente che governa da sempre a radici profonde. La nostra voglia di cambiamento è stata capita, però la gente ci è venuta dietro, ce l'abbiamo quasi fatta, quasi, ma per 15 voti non ce l'ha fatta. E poi ci ricorda anche ovviamente l'aneddoto, no? Poteva mancare il ricordo agiografico, in questo caso, di quando Matteo Renzi era il mio capo scout, lo è stato per 4 anni. C'è anche una foto a corredo con Samuele Fabbrini e Matteo Renzi immortalati all'epoca in cui erano scout. Una notte, racconta Fabbrini, una notte che dormivamo in mezzo al bosco e non eravamo riusciti a montare la tenda per non fare avvicinare gli animali, Renzi si mise a cantare Guccini a squarciagola. E vabbè, insomma, in questo caso le bestie, le fiere, tutte scacciate dal Guccini a squarciagola cantato da Matteo Renzi. Prima della pubblicità, una notizia che mi ha colpito sul Fatto Quotidiano, viene data e dedicata una pagina. Funziona così in Corea del Nord, dove il presidente Kim Jong-un, non so neanche come definirlo, leader assoluto, presidente, insomma, Kim Jong-un, quello lì, è stato eletto anche presidente del Parlamento con il 100% dei voti. 100% dei voti, non c'erano candidati oltre a lui, ma dai, e tutti hanno votato per lui, ma dai. E viene intervistato sul Fatto Quotidiano Antonio Razzi, sapete che è l'onorevole che è diventato più amico, inspiegabilmente, della Corea del Nord, no? Ha trovato questo modo per avere una visibilità. Viene intervistato da Tommaso Rodano e dice: ma dai, no, non lo sapevo, davvero ha ottenuto il 100%? Beh, oggi riceverò l'ambasciatore nordcoreano e farò i complimenti. Comunque, meglio per lui. Certo, se vinceva col 95% era meglio. E ride Antonio Razzi. E comunque aggiunge: col 100% si governa meglio. Fosse che fosse la volta buona che in Italia diamo il 100% a Berlusconi. L'unico modo per governare è senza gli intoppi degli alleati e dei piccoli partiti. Eccola la ricetta di Razzi, è tutto semplice, basta fare come nella democratica Corea del Nord. 100% a uno, lui dice a Berlusconi, ma se volete datelo anche a Peter Biscapè, l'alpino. 100% a lui, governa l'alpino Peter Biscapè. 3 mesi e sistema l'Italia. La pubblicità. Alessandro Milan, il David Letterman dell'informazione. Questa di David Letterman non è male, eh? Beh, devo dire, paragone assolutamente non all'altezza per quel che mi riguarda, insomma, il grandissimo David Letterman. Alle 7:32 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, le due notizie portanti con cui aprono i quotidiani sono la questione economica, e la vedremo tra poco, e la questione di quello che è successo ieri alla Camera, cioè la bocciatura con voto segreto degli emendamenti che volevano inserire la parità di genere nella legge elettorale, quindi la possibilità di candidare 50-50%, insomma le quote rosa, come vengono definite. Anche se oggi la sociologa Chiara Saraceno fa un'intervista al Manifesto a pagina 3 e dice: basta questa questione di quote rosa, ma quali quote rosa? Sono categorica, il problema vero è di quote blu o azzurre, se preferite, nel senso che va ridotto il numero di uomini presenti in Parlamento, bisogna mettere fine a questo monopolio. Servirebbe davvero una norma antimonopolistica. E dice anche Chiara Saraceno, intervistata da Carlo Lania: sono stanca che la questione venga sempre formulata in termini di quote delle donne, non si tratta di un problema solo lessicale ma concettuale di prospettiva, la questione è la riduzione del monopolio maschile, infatti è proprio così che si oppone, che chi si oppone lo sta percependo come la rottura di un monopolio. Insomma, dice lei, bisogna mettere le quote blu. Sta di fatto che tutti i giornali raccontano della, anche con uno scenario e con un corredo di fotografie non indifferente, perché ieri c'è stata la sfilata delle parlamentari, molte delle quali vestite di bianco per protestare. Articoli che raccontano quello che è, per esempio, per Fabrizio Roncone il giorno più lungo delle parlamentari sconfitte, a pagina 3, il giorno più lungo, con il racconto delle scene, della speranza, poi il voto segreto, la bocciatura, la disperazione, la rabbia, anche la rabbia, per esempio, di Roberta Agostini, onorevole del Partito Democratico, prima firmataria degli emendamenti che volevano introdurre la parità di genere, intervistata da Maria Zegarelli sull'Unità, esce dall'aula col volto scuro: il nostro partito non l'ha votato. E sì, perché nel voto segreto i voti sono stati i sì, sono stati, o meglio i no all'emendamento sono stati molto di più del numero dei parlamentari del PD, si parla di 100 franchi tiratori, sempre 100, no? Ricordate i 101 che impallinarono Prodi, sempre 100, questa cifra di franchi tiratori nel Partito Democratico. Furibonda Roberta Agostini, nel PD c'è stato un tradimento da parte di alcuni di noi, questo era un emendamento condiviso nel gruppo a parole più degli altri, ma evidentemente il voto segreto ha coperto dissensi che non hanno avuto il coraggio di venire alla luce e dimostrarsi. Certamente la riforma elettorale si fonda sull'accordo prioritario tra Renzi e Berlusconi, ma il patto andava concordato meglio e di più con le forze dell'attuale maggioranza. Poi chiaramente c'è ora il rischio di dire, e come scrivono molti giornalisti, ora attenzione alle vendicative donne parlamentari, come Mario Aiello a pagina 7 del Messaggero. C'è un libro strepitoso, Troppo buoni con le donne, di Raymond Queneau, che racconta quanto può essere terribile la perfidia femminile. Vediamo stavolta cosa porterà, perché certamente, scrive Mario Aiello, ora il timore è che le donne parlamentari arrabbiate, arrabbiatissime, impallinino la legge elettorale. Certo, lo dice chiaramente Rosy Bindi, presidente Commissione Antimafia, intervistata da Repubblica, pagina 7, sacrificata la Costituzione all'accordo con Berlusconi, non voterò questa riforma, non parteciperò al voto finale sulla legge elettorale, questa è una ferita molto grave e profonda, mi aspettavo finisse così, lo temevo, lasciare la libertà di voto e la mancanza di indicazione a favore degli emendamenti sulla parità da parte del nostro partito ci esponeva molto. E poi Rosy Bindi non ha timore di dire, questo mi fa dire con molta amarezza, che questo risultato è colpa dei democratici, la responsabilità è tutta del PD, che ha sacrificato la fedeltà alla Costituzione e ai propri valori all'accordo con Berlusconi. Una legge elettorale che nasce su questo tradimento non può essere una buona legge, e quindi dice non la voterò. Certo, poi ci sono anche articoli, il Giornale ha una posizione molto dura, dire la farsa delle quote rosa manda al tappeto il PD, ci sono quindi anche molti critici di quella che era la proposta delle quote di genere. Filippo Ceccarelli fa uno strepitoso articolo che racconta la storia travagliata di questo provvedimento che anche ieri non è riuscito a passare, stravince, e Filippo Ceccarelli su Repubblica la mette come prima dichiarazione, la frase, o meglio il tweet dell'onorevole Giuditta Pini, che scrive così: che lo spirito di Lorena Bobbitt accompagni i colleghi che hanno bocciato l'emendamento. Ma come, Lorena Bobbitt, quella che evirò il marito? Che lo spirito di Lorena Bobbitt accompagni i colleghi che hanno bocciato l'emendamento. Così l'onorevole Giuditta Pini del PD, peraltro, come fa sapere Repubblica, Lorena Bobbitt è ancora viva, dunque che lo spirito non esiste di Lorena Bobbitt. Ma per dire, scrive Ceccarelli, che sono comunque faccende complicate, al limite un po' buffe. Ricorda per esempio quando nell'ottobre 2005 il ministro per le pari opportunità, quando Prestigiacomo era allora, predispose un primo timido progetto di riequilibrio di genere alla Camera, vi si resse contro un deputato siciliano, Pippo Gianni, che disse molto semplicemente: le donne non ci devono scassare la minchia, e poi insomma chiese scusa con tanto è chiaro che la storia della Repubblica Italiana e la storia delle battaglie parlamentari su questo tema è anche la storia di grandi dibattiti e di grandi sconfitte per le donne, come nel caso di ieri, e di grandi discussioni che però dal punto di vista concreto poi alla fine naufragano e non portano a nulla. Per qualcuno è giusto così, per altri no. Noi approfondiremo alle 8:15, avremo l'onorevole Alessia Mosca del Partito Democratico, Roberta Lombardi, onorevole del Movimento 5 Stelle, Nicola Porro, conduttore di Virus su Rai 2 e anche vice direttore del Giornale. Allora, comunque la pensiate, approfondiremo. L'altro tema però è un tema certamente più concreto, certamente più trasversalmente riconosciuto come importante dagli italiani. Domani c'è il Consiglio dei Ministri nel quale si deve decidere, e Renzi annuncerà il taglio delle tasse e come si prendono i soldi, dove si prendono i soldi e soprattutto questo taglio delle tasse dove va a ricadere. Ieri il ministro dell'economia Padoan al primo Ecofin, Piercarlo Padoan, ha detto: il taglio del cuneo è coperto dalla spending review, quindi dalla revisione della spesa. Il Sole 24 Ore fa sapere a pagina 3 come si reperiscono le risorse. 5 miliardi dei 10 annunciati da Renzi arriveranno da Italia alla spesa, l'attuazione della spending review messa a punto da Cottarelli, su cui si conosceranno maggiori dettagli proprio domani, quando Cottarelli riferirà in commissione bilancio alla Camera. Sarebbero distribuiti così: tra i 2,5 e 3 miliardi un nuovo intervento su beni e servizi con rafforzamento del metodo Consip, 1 miliardo dalla razionalizzazione di incentivi e sussidi alle imprese, la fetta restante tagli selettivi su consulenze, auto blu, costi della politica e pubblico impiego. Mancano all'appello altri 5 miliardi e insomma è questione di 24 ore. Rispunta, per esempio, scrive il Sole 24 Ore, il taglio agli F-35, no? I famosi aerei caccia bombardieri. Rispunta l'idea di tagliare nella difesa. Dove andranno questi soldi? Beh, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi oggi scrive una lettera che viene pubblicata dal Corriere della Sera, pagina 6. La lettera è: ridurre il cuneo fiscale delle aziende è l'unica strada per creare occupazione. Insomma, in questo che viene definito derby di dove destinare le risorse tra taglio dell'IRAP o dell'IRPEF, Squinzi dice tagliamo l'IRAP. Scrive infatti: siamo da tempo convinti che la questione chiave è la riduzione del cuneo pagato dalle aziende. Ridurlo vorrebbe dire venire incontro a chi produce e genera valore in Italia, allo sforzo di chi crede nel nostro paese. La riduzione del costo del lavoro agirebbe in favore degli occupati e di chi un lavoro purtroppo oggi non ce l'ha, ma lo avrebbe se il suo costo gravasse meno sul bilancio delle imprese. Insomma, Squinzi scrive al Corriere: chiediamo agli italiani se vogliono un lavoro o qualche decina di euro in più, che è il tema IRAP o IRPEF. C'è da dire che, secondo La Stampa, in realtà Matteo Renzi ha già deciso. Tutto è nelle mani sue, di Padoan e di Graziano Del Rio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E nell'articolo retroscena di prima pagina, che dà anche lo spunto al titolo di prima pagina della Stampa, Renzi avrebbe deciso di mettere tutto il tesoretto nelle buste paga e dunque nell'IRPEF. 10 miliardi per le famiglie, scrive Alessandro Barbera. La scelta di Renzi: a tarda sera Matteo Renzi ieri a Palazzo Chigi ha passato l'intera giornata con Graziano Del Rio. Nelle stanze del governo si è sparsa la voce che le parole del ministro all'economia Padoan da Bruxelles sulle necessità di entrate certe per finanziare l'Italia alle imposte sono un ostacolo al piano di Renzi. Renzi però è categorico, non slitta niente, neanche di una settimana, nessun rinvio, dice ai suoi, si parte dalle famiglie, so che le imprese ci rimarranno male, ma ho detto al capo degli industriali Squinzi che il modo migliore per aiutare le imprese in questo momento è snellire la burocrazia, cambiare il rapporto con il fisco. Dunque, secondo La Stampa, ma non resta che attendere 24 ore, Renzi avrebbe deciso tutti i 10 miliardi ai taglio dell'IRPEF. Le simulazioni portano a dire che chi avrà redditi fino a 15.000 euro potrebbe arrivare fino a 200 euro in più in busta paga a famiglia, in genere 80-100 euro a persona. Staremo a vedere, caro Mauro Meazza, Mauro Meazza, eccoci. Caro Alessandro, attendiamo Sole 24 Ore, il Sole 24 attendiamo Ore. Attendiamo solo Sole 24 Ore. Sole 24 sì, Ore, vabbè, sì. Quella roba no, lì. Scusa la pessima battuta, volevo dirti, oggi è martedì, non mercoledì, giusto? Sì, è martedì. Ah, allora oggi non succede niente, no, perché succede tutto domani super mercoledì. Bene. Come ha scritto Folli, mi pare, super mercoledì oggi sul Sole 24 Ore. Il commento politico di Folli. No, volevo dirti, però nel super mercoledì dovrebbero anche darci un aiutino sul bonus mobili all'interno del provvedimento sulla casa, e lo riferiamo appunto oggi sul Sole 24 Ore, tutti i particolari, non in norme e tributi questa volta, ma già nelle prime pagine, così da ingolosire subito il lettore. Hai lasciato dei soldi fuori, non so, per esempio a Madrid, volevi lasciare dei soldi no, a Madrid? No, chissà perché ti ricorre questo Madrid. No, ma mi vengono nelle città così a caso, a Madrid, non lo so. No, perché volevo dirti che sulla voluntary disclosure c'è un po' di indecisione. Lì non sono molto decisi, anche lì tra IRPEF e IRAP, no, lì non sanno bene decreto legge, disegno di legge. Comunque invito tutti a leggere il contributo del oggi che apre norme e tributi di Alessandro Galimberti, così si può avere una spiegazione. Invece non trovo una spiegazione su un lavoro che presenta Federica Micardi sui redditi dei professionisti, e praticamente calano tutti i redditi di tutte le categorie professionali, commercialisti, avvocati, notai, eccetera. tranne una categoria, due categorie, gli psicologi e i veterinari. E perché sorridi? Perché ne hai bisogno? Non lo so, mi sembra proprio una cosa amara, ecco, un sorriso amaro. Gli unici redditi che crescono sono quelli degli psicologi e vabbè, quelli dei veterinari. Perché siamo un paese che ne ha bisogno. Probabilmente abbiamo bisogno di psicologi in questo momento più che di avvocati. Qualcuno anche di psichiatri, ma però insomma sono... Vabbè. Quello però non ho guardato se c'era il reddito, ma se vuoi vado a controllare. No, e poi a proposito di professioni, sono state fissate al Ministero le parcelle per gli avvocati, quindi i nostri amici avvocati possono controllare poi sulle pagine di Normi e Tributi, nonché sul sito nostro, il livello delle parcelle che sono state fissate dal Ministero. Poi due cose ancora. Una è che i centri per l'impiego da noi funzionano poco, cioè solo un disoccupato su tre va ai servizi pubblici, lo scrive Claudio Tucci sulla pagina di lavoro oggi in Imprese e Territori. Mi sembra strano, cioè mi sarei aspettato il contrario, ma il dato qui mi ha sorpreso un po'. E poi crociere, perché oggi c'è la pagina della Marittima, e devi sapere che ci sono delle compagnie che hanno addirittura deciso di non fare più scalo nei porti italiani. Accidenti. Così, pronti via, e tagliamo l'Italia, speriamo che, come dire, ritornino sulla loro decisione, però questo è il riferimento che ci viene addirittura da Miami, dove c'è in corso un meeting molto importante. E vabbè, insomma, una bocciatura per l'Italia. Mauro, siamo in ritardissimo, devo dare il traffico. Caetano Milan e il Berlusconi delle informazioni, Fribio. Va bene. Allora, uno dei temi sui quali i giornali si concentrano è la spaccatura all'interno del sindacato, o meglio, come ieri dicevo, il fatto che Renzi abbia trovato una sponda nella FIOM di Landini e Susanna Camusso da CGIL abbia già detto: beh, a questo punto rischiamo di minacciare lo sciopero. Renzi spacca il sindacato. Questa è l'analisi, per esempio, del Manifesto a pagina 4 con Antonio Sciotto. Ma soprattutto sul sindacato vi voglio segnalare l'inchiesta, che è il titolo anche di prima pagina del Messaggero. E c'è questa cifra che fa certamente impressione: 1 miliardo dallo Stato. Ecco il conto dei sindacati. Pagina 2-3, Osvaldo De Paolini, il sindacato. Non riescono, magari non per colpa solo loro, a rappresentare i ragazzi e le ragazze. C'è da capirli, visto che il 75% dei loro tesserati sono pensionati. Così, questa è la frase recente di Matteo Renzi. Da qui prende spunto il Messaggero per dire: andiamo a vedere quanti soldi dà lo Stato ai sindacati. C'è questa cifra sbattuta a pagina 2. 1 miliardo l'anno. Ecco come lo Stato finanzia i sindacati. Tra l'altro, scrive il Messaggero, 1 miliardo di euro slegato dall'attività tipica. È pur vero che questa espressione dice nulla, visto che nessuno ha mai letto un bilancio di un sindacato, non essendo tenuti a presentarlo. E però 1 miliardo di euro al netto delle quote associative non è poco, trattandosi di un extra. Qualcuno potrebbe osservare: ma chi dice che si tratti davvero di 1 miliardo, visto che nessuno conosce i bilanci? Anzi, si tratta di un calcolo prudenziale, perché questa è solo la cifra che transita dai patronati, dai centri di assistenza fiscale, gli arcinoti CAF, che fanno capo alle organizzazioni sindacali, e quando provi a fare domande sul tema, molte bocche si fanno storte, ma restano cucite. Facendo un po' i conti in questa inchiesta, pagina 2-3, il Messaggero dice: circa 600 milioni sono i compensi, sottratti a un negoziato di mercato ma garantiti da norme di legge e convenzioni, che vengono incassati da patronati e CAF per i servizi erogati. Il dato è stato aggiornato circa un anno fa da Giuliano Amato, incaricato dal governo Monti di preparare una nota sul finanziamento diretto e indiretto del sindacato. Nel dettaglio si tratta di 430 milioni di stanziamento per i patronati, 170 per i CAF. E poi insomma, gli altri soldi che vengono erogati, insomma, si finisce ad arrivare a questa cifra di 1 miliardo. Questo nell'inchiesta sul Messaggero certamente fa abbastanza discutere, anche perché scrive il Messaggero: tutti soldi incassati senza alcun controllo, visto che i sindacati non devono presentare il bilancio. Oh, per quel che riguarda invece la questione delle altre notizie di cronaca, intanto, beh, ancora no, politica, la politica è questa, c'è anche Silvio Berlusconi che, secondo Libero, dice, Barbara Romano a pagina 4, ma chi lo dice che non mi candido alle europee? Ci sarebbe questo divieto della legge Severino, ma Berlusconi continua a dire ai suoi: mi state privando del diritto di esercitare la mia leadership. Mi candido e come, alla faccia della magistratura e della legge Severino. Sarà dunque di nuovo lui, secondo Libero, il capitano della squadra azzurra alle elezioni europee del 25 maggio. Ci saranno da sfidare, immagino, i giudici, le leggi, i TAR, eccetera, ma il dato di fatto è questo. Notizie di cronaca che mi hanno colpito. Schettino, torna il comandante Schettino, racconta Paolo Crecchi sul Secolo XIX, pagina 11, per la Costa era insufficiente in leadership. Questo già nel 2009. È venuto fuori ieri al processo per la tragedia del Giglio. Nel 2009 la società definiva così il comandante. Il colpo di scena, racconta il Secolo, è arrivato al termine dell'udienza di ieri. Il pubblico ministero Leo Pizzi aveva rivelato i risultati delle ultime valutazioni periodiche effettuate da Costa sull'imputato Schettino, insufficiente in leadership e gravemente insufficiente nel trasferimento delle informazioni ai vertici della società. Questo nel 2009. Beh, insomma, a giudicare da questo giudizio, la persona giusta per comandare una nave da crociera. Va bene, che dire, siamo al momento conclusivo. Prima voglio però citare anche solo il titolo, una pagina di Repubblica su questo che è il mistero per la scomparsa dell'aereo, il Boeing 777 della Malaysia Airlines. Spionaggio, terrorismo, fatalità, il mistero del Boeing scomparso diventa un intrigo internazionale. Vi segnalo la pagina di Repubblica, Giampaolo Visetti, davvero è incredibile. Tra le varie ipotesi, una su tutte quella di terrorismo, che cosa sia successo a questo Boeing 777 che è scomparso. Quello che si sa di nuovo particolare, abbastanza inquietante, è che è stato un iraniano misterioso, scrivono su Repubblica, a comprare i biglietti di sola andata dei due passeggeri che sono andati a bordo con il passaporto rubato e avevano il biglietto di sola andata. È terrorismo? Questo finora ovviamente non si sa, è una delle ipotesi. Va bene, ma siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. A mio insindacabile giudizio, come sempre, oggi vince, stravince il Corriere della Sera con Elvira Serra che intervista, ma non negli spettacoli, così, e nelle notizie di cronaca, un'intervista a Laura Chiatti. Vabbè, Laura, i nipoti, il fidanzato e la felicità, ma non riesce a vedersi bella com'è. Ma, niente, e perché non è? Perché soffre di... Oh, mamma mia, adesso me la son persa. Di che soffre? Dismorfofobia. Cioè, si vede allo specchio e si vede un cesso. Questo è Laura Chiatti. Questo è... Ma che... Ma... Ah. La carta costa, punto.